Con Alessandra Ferraro, co-direttrice di Attraversamenti Multipli dal 14 al 28 settembre a Largo Spartaco a Roma e il 5 e 6 ottobre a Tossia, provincia di Rieti. Alessandra, ben trovata. Ci Grazie, ben trovato anche a te. racconti? Certo. Allora, Attraversamenti Multipli quest'anno, come già hai detto, inizia sabato 14 settembre, si sviluppa fino al 28 settembre tutti i fine settimana a Largo Spartaco, al Quadraro, a Roma. E poi per 2 giorni, in un posto che in realtà non abbiamo mai attraversato, con un piccolo paese nella provincia di Rieti, che è Tossia. Il festival quest'anno, diciamo, come ormai tutti gli anni, un po' il suo, diciamo, il suo percorso, il suo viaggio, accompagnato da un tema, uno slogan intorno al quale ruota un po' tutto il festival. E quest'anno è Mondi. Diciamo che un po' è la continuazione del percorso che abbiamo iniziato l'altro anno, tra l'altro siamo anche a Largo Spartaco all'interno di un progetto triennale che si abitava proprio il Quadraro, e l'altro anno appunto eravamo accompagnati invece dal tema degli sconfinamenti, quindi la proposta di attraversare i confini tra le culture diverse, i confini tra i generi artistici e non solo. E adesso quest'anno diciamo è come se in continuazione, agganciandosi con questo concetto dello sconfinamento come, diciamo, come processo anche costituente, di incontro, di confronto, proponiamo invece l'esplorazione, immaginazione e creazione di nuovi mondi. E questo è, diciamo, è il tema che ci accompagna. Chiaramente un invito, come sempre, attraversamenti multipli, alla molteplicità anche dell'esistente, un po', e anche questo, insomma, il nome del festival che ci accompagna, e anche alla molteplicità delle espressioni artistiche, delle performance art contemporanee. Per cui, come ormai chi già conosce il festival sa, anche quest'anno proponiamo spettacoli teatro, performance dance, sai, specific musica. E quest'anno il festival è arricchito anche dalle presenze di compagnie straniere, grazie alla relazione con un progetto europeo di cui siamo partner, e che tra l'altro per la seconda edizione di Contact Zone, questo è il nome del progetto, Contact Zone Performance Art in Urban Space, quindi è un progetto che comunque lavora su quelli che sono anche diciamo, i pilastri della ricerca artistica di attraversamenti multipli, di parti operative, cioè le relazioni tra le arti performative del contemporaneo e gli spazi urbani non convenzionali. E quest'anno, grazie a Contact Zone, in realtà abbiamo rafforzato il festival con le presenze di gruppi stranieri, che alcuni già presenti il 14, infatti abbiamo fatto un po' la scelta di aprire anche con il festival con una forte presenza degli artisti in connessione con Contact Zone, che sono giovani artisti emergenti, conosciuti all'estero, ma alcuni, tra cui il danzatore spagnolo Ivan Benito, per la prima volta in assoluto in Italia, quindi sconosciuti in Italia, ma come sempre, diciamo, attraversamenti multipli, mi piace pure, diciamo, fare un po' un lavoro di scouting, quindi andare un po' a cercare che quello che si muove a livello europeo nelle performing arts e proporlo, diciamo, anche nella città di Roma. Diciamo quanti saranno più o meno gli eventi e poi come saranno organizzate le giornate sia a Roma che a Tokyo. Allora, gli eventi sono a Roma, sono 7 giornate, quindi 3 fine settimana, quindi 14 e 15, poi la settimana successiva, il venerdì, sabato, domenica, poi il sabato, domenica. Come gli altri anni, la domenica, in primo pomeriggio, non primo perché alle 18 in realtà, proponiamo degli spettacoli anche adatti alle nuove generazioni di spettatori, quindi dai 0 ai 99 anni. In ogni giornata c'è, come sempre, un intreccio tra performance dance, spettacoli, sono 3-4 spettacoli, e tutto appunto a Largo Spartaco. Alcuni spettacoli che trovate sul sito, che attraversamentimulti.it, sono una prenotazione obbligatoria. E il 14, come dicevo, apriamo per la prima volta con un videomapping, la prima volta che abbiamo fatto un videomapping al Quadraro sul Boomerang, l'edificio che circonda tra l'altro il Largo Spartaco, per chi lo conosce, e a cura di Flex Team. Poi abbiamo una performance interattiva di audio-video mapping con Ippologica e Flexer Team, e poi abbiamo la premiere nazionale del danzatore spagnolo di cui parlavo prima, Ivan Benito, Galapago, e un'altra prima nazionale, che è una compagnia basca che si chiama Erza, Meeting Point, una performance che è stata pluripremiata all'estero, quindi chi è incuriosito, chiaramente l'ospedale Largo Spartaco, e poi abbiamo un'altra performance a cui teniamo molto, con Sei Specific, che viene costruita attraverso una residenza artistica / laboratorio che parte l'8 settembre, lei proprio al Quadraro, curato dal consorzio Gran Lucisano, che è diciamo una nuova compagnia creata da Teodora Grano e Chiara Lucisano, due danzatrici, e Chiara anche una circense, e fanno un progetto molto interessante, un esperimento ibrido tra danza e fisica, all'interno del quale sono coinvolti 5 danzatori e 5 fisici, e quindi veramente qui diciamo stiamo proprio sulle linee di confine tra diversi, non generi artistici, ma proprio codici e mondi diversi che si vanno a incontrare in questa performance che è costruita e prodotta da Attraversamenti Multipli e Contazon per gli spazi del Quadraro. Diciamo, questo è l'elemento che quest'anno, parlavo un po' prima, vi raccontavo che è stato rafforzato, è proprio la presenza di alcune residenze artistiche, alcuni laboratori che poi i lavori vengono presentati al festival, costruiti appositamente per il festival, che è un elemento che ha caratterizzato un po' sempre Attraversamenti Multipli, però che ogni anno rafforziamo maggiormente proprio la sperimentazione sul site specific, e anche cerchiamo di creare delle residenze artistiche di produzione per le compagnie. Invece il giorno dopo, domenica 15, abbiamo alle 18, come dicevo, un primo spettacolo di circo contemporaneo dedicato a tutti, per un pubblico quindi altissimo, il collettivo Lazzo Cirque, Léa Legrand, che è un'artista francese, che presenta la Ciuta, che tra l'altro è un'anteprima nazionale di questo suo lavoro bellissimo tra danza e acrobatica, è veramente molto molto bello, e anche questo è uno spettacolo che sta all'interno dell'ambito del progetto proprio Contazon. E poi dalle 18 a non stop c'è l'installazione fotografica Cartografie Effettive, opera partecipata creata anche questa per Attraversamenti Multipli attraverso una residenza, un laboratorio da Carolina Farina, e anche questo è un progetto di, diciamo, mappatura fotografica del territorio, ma non solo, anche dell'istituzione, attraverso queste, cioè, cartoline che verranno regalate poi al pubblico. Alle 9 invece abbiamo di nuovo il Benito Galapago, che presenta il Site Specific, che già diciamo presenta anche il 14 e 15, e alle 9:30 Roberto Latini, Forte Braccio Teatro, I Giganti da Montagna, nella versione radio edit, e questo è uno di quei spettacoli che squadra per un numero limitato di spettatori, per cui è richiesta la prenotazione e si trovano informazioni sul sito. Vi posso dare degli accenni ma sui giorni dopo, che il 20 avevamo Kim Calleri, Alessandro Carboni, Carlo Massari, Cicci Company, tra l'altro Carlo Massari presenta una trilogia, anche lui una prima nazionale di questa trilogia, di questo progetto, si chiama Appeso Morto, che si è costruito a 3 quadri, lui, lei e l'altro, e quindi il venerdì farà lui, sabato lei e poi l'altro, e anche questo è un progetto, diciamo, in residenza, e che accoglie, insomma, Carlo Massari, Cicci Company, per cui segue il festival, è un artista che da un po' di anni, insomma, che stiamo seguendo, e ci piace anche che ci sono questo elemento di nuovi artisti e artisti anche che emergenti, che però uno segue da più tempo, che sono presenti al festival. Mentre invece il 21 abbiamo Kim Calleri, che però presenta il 20 una performance specific, invece il 21 Ascesa e Caduta, quindi due lavori completamente diversi. Per Ascesa e Caduta c'è bisogno della prenotazione, e poi abbiamo Salvo Lombardo, Compagnia Chiasma, e poi sempre la presenza della installazione fotografica a cura di Carolina Farina. Il 22 settembre invece alle 18, secondo spettacolo dedicato anche all'infanzia, pubblico dai 5 ai 99, circo contemporaneo, Madame Rebinet in giro della piazza, compagnia italo-francese, con uno spettacolo, quello nuovo spettacolo molto bello dedicato, spettacolo ciclocomico, al mondo del ciclismo in versione circense. E poi alle 19 abbiamo Carlo Massari, che appunto presenta la seconda performance della trilogia, e poi sempre ci accompagna la presenza dell'installazione fotografica di Carolina. Il 27 abbiamo il collettivo cinetico alle 8:30 che presentano Auto Destroy Your Dance, che in realtà è un site specific molto interessante perché l'azione proprio della performance dura 50 minuti, però in realtà il tutto è molto più lungo perché c'è un prima, una preparazione a cui già il pubblico partecipa, c'è un dopo, quindi è una performance come in quelle che diciamo interessano anche a me molto, è un formato particolare sia spaziale che temporale, quindi una dilatazione temporale molto interessante anche di interazione con il pubblico. E invece alle 10 abbiamo lo spettacolo di Andrea Cosentino, Primi passi sulla luna, che è perfetto all'interno di questo ragionamento sui mondi da attraversare, non poteva mancare assolutamente quest'anno Andrea ad attraversamenti, e anche questo è uno spettacolo per diciamo a prenotazione. E poi abbiamo la installazione fotografica che è presente in vari giorni, appunto ci accompagnano tutti i giorni, ma quasi tutti, sia il 27 che il 28. E il 28 invece chiudiamo a Roma con noi, c'è una performance di Marte Operativo nostra, la nostra ultima produzione, è una premiere anche questa con Meduse Cyborg, e anche questa è per un numero limitato di spettatori, quindi con la prenotazione. E poi abbiamo un progetto in connessione sempre con Contazon di un artista, danzatore, coreografo tunisino-francese che è Fedi Manai, con la sua compagnia che si chiama Brota From Another Moda Company, e che fa un progetto molto interessante con un workshop che parte giorni prima, che tra l'altro hanno lanciato un open call, che c'è stata una risposta incredibile, proprio sold out anche di più, e attraverso questo laboratorio costruisce una parte anche di questa performance, che è un site specific, anche questo costruito appositamente per attraversamenti multi, anche lui ha un periodo di residenza durante il periodo del festival, conduce un laboratorio e presenta una performance, quindi sta aiutando il festival in tre modi, diciamo, in modo multiplo, in tre modi diversi. E poi chiudiamo con un DJ set, con un momento di festa, come sempre le nostre corde, è anche un momento chiaramente di festaiolo, che è un DJ set della Regina del Fumetto. E questo è il 28 ed è Roma, e abbiamo chiuso a Roma. E poi ci sono due giornate a Rieti che invece sono dedicate con due spettacoli, il 5 e il 6, uno di Madame Rebinè che però presentano La riscossa del clown, un altro spettacolo che propongono a Roma, e il 6 ottobre col Teatro Operazioni che presentano Fiamme da tavolo. I due giorni a Rieti, in provincia di Rieti, sono dedicati alle nuove generazioni di spettatori e quindi per un pubblico molto, molto ampio. Questo è tutte le notizie, e poi chiaramente c'è il sito che è attraversamentimultipli.it, dove sono tutte le informazioni, l'evento Facebook, la pagina Facebook, Twitter, Instagram, insomma ci riuscite ad agganciare. 19esima edizione di Attraversamenti Multipli dal 14 al 28 settembre a Roma al Largo Spartaco e 5 e 6 ottobre a Toffia, provincia di Rieti. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Alessandra Ferraro di Margine Operativo. Un abbraccio, in bocca al lupo, risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo, ciao.